Una porta. Piccoli sogni in abito blu, ammiccano discreti dall'insegna di un locale, mentre tu mi proponi discoteche inquietanti e amici naif. Io speravo in un incontro galante. Spicchio di luna ormai non navigo più, da molto tempo in quelle stesse acque tempestose dove tu mi trovasti tanto male in arnese da scappare via. No, non voglio abbandonarmi i ricordi, da via ne approfitto per fare. Questa notte dove sei? Cantami, oh diva, di quello che vuoi. Magari non gridarmi nelle orecchie mentre suono Jumping Jive. Ti ho cercata in tutti quanti gli alberghi di questa città. Ora fa che sia bello ritrovarti proprio qua. Grazie.